Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Il Consiglio dell'Unione Europea ha recentemente approvato un provvedimento per rafforzare la formazione dei conducenti professionali di mezzi pesanti e di autobus. L'obiettivo è anche quello di rendere le strade europee più sicure. Una piena padronanza del mezzo e di tutti gli strumenti a disposizione significa infatti capacità di riconoscere e affrontare le situazioni di guida più difficoltose, con benefici in termini di sicurezza. Del resto, sono sempre di più le aziende del settore che cercano personale specializzato. Ed è per questo che in Italia si stanno moltiplicando i corsi di specializzazione in trasporti e logistica. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Oggi ci occupiamo di un tema che è particolarmente caro soprattutto al mondo dei giovani. Parliamo di formazione professionale nel settore dei trasporti e della logistica. La notizia di qualche giorno fa è quella legata allo strepitoso successo che ha ottenuto un progetto di formazione avviato dal Comitato Centrale della Albo degli autotrasportatori, quindi dal Ministero dei Trasporti. Ci si aspettava un numero di adesioni vicino ai 500-600, sono arrivate 2500 adesioni a questo progetto nel giro di poche ore, di pochi giorni, e questo a testimonianza di come questo settore sia particolarmente intrigante anche per il mondo dei giovani o per chi si vuole affacciare al mondo del lavoro, con particolare riferimento appunto al settore, al segmento dei trasporti e della logistica. E allora, per fare un po' il punto sulla attività formativa che viene svolta in questo campo, abbiamo due nostri ospiti oggi. Vi presento il primo, il professor Ivan Russo, che è il presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione ITS di Verona. Buon pomeriggio, professor Russo, e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. E il professor Pino Bulla, che è invece un componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione ITS di Catania. Buon pomeriggio anche a lei. Altrettanto da parte mia. Allora, cominciamo proprio da lei, professor Bulla. Quando è nato questo istituto e quali sono i corsi che voi portate avanti? La fondazione è nata intorno al 2011 per volere dell'allora provincia di Catania e oggi, quindi dopo diverse traversie, accorpa il Politecnico del Mare di Catania, l'Aeronautico Ferrarin e l'Università degli Studi di Napoli, che è la Partenope, oltre ovviamente alla città metropolitana. Da un paio di anni è decollato il master di 2 anni come durata inerente ai trasporti e logistica integrata, e sta riscontrando notevole successo perché le aziende che sono state chiamate, sono state coinvolte, hanno accettato. Già sono una trentina di grosse aziende di trasporto sul territorio partner di questa iniziativa, e i nostri ragazzi, si fa per dire, perché tutti orbitano tra i 23 e i 28 anni, molti laureati, tutti il resto diplomato, ne abbiamo una cinquantina, che stanno con successo frequentando il mare. Quindi un'offerta multimodale che abbraccia appunto varie modalità di trasporto, dal trasporto marittimo a quello su strada, addirittura al mondo aereo. Professor Ivan Russo, Verona è un po' il centro dell'intermodalità in Italia, è un po' il cuore forse del mondo dei trasporti italiano, quindi suppongo che anche nel vostro caso si tratti di una sorta di successo annunciato, di un'iniziativa simile a quella di Catania. Certamente siamo partiti da delle condizioni presenti sul territorio veronese importanti, quindi abbiamo un interporto tra i più importanti d'Europa e sicuramente diciamo la parte di formazione relativamente alla logistica, soprattutto dal mondo dell'università, era già presente. Tuttavia abbiamo avuto la necessità di avere un percorso, diciamo, che avesse a bordo prima di tutto gli stakeholder del territorio, quindi dalle scuole, che sono capofila negli ETS, a Confindustria, alle aziende, all'Interporto, e soprattutto abbiamo fatto questo percorso, abbiamo riunito le aziende, abbiamo sostanzialmente detto c'è questa nuova modalità di formazione, sono gli ETS, che sono a mio parere alternativi all'università e ma altamente professionalizzanti, in logistica, e abbiamo chiesto, fatto una domanda molto semplice: che figure professionali avete bisogno? E da questo siamo partiti attraverso un'analisi dei bisogni delle aziende, e da qui siamo poi abbiamo creato e sviluppato col comitato tecnico scientifico il percorso formativo. I vari progetti, certo, fra un po' cercheremo di capire quali sono anche i risvolti occupazionali. Professor Bulla, la Sicilia, come sta rispondendo il mondo delle imprese siciliane a questa iniziativa e quali sono le esigenze di mercato appunto dell'isola rispetto alla formazione di trasporti e di logistica? Come dicevo prima, molte aziende già sono partner della nostra fondazione e hanno gradito tantissimo di poter avere fra le proprie fila, quindi durante i periodi di stage, giovani che vengono dal mondo non solo scolastico, ma addirittura con un bagaglio culturale non indifferente. E questo fascino che il nostro settore, che se ne dica il mondo dei trasporti e della logistica, su molti giovani attira, e alla fine ne viene a vantaggio esclusivo delle aziende che fra stage e quant'altro hanno l'opportunità, attraverso il criterio del partenariato, di poterli assumere. Ecco, l'obiettivo, quindi scuola-lavoro, master-lavoro, alla fine sta dando i suoi frutti, già un 60% nello spazio di un anno dei giovani nostri fanno già lavoro in partenariato e con un successivo obiettivo, che è quello dell'inserimento ovviamente in azienda. Dipendente, certo. Direttamente. Professor Russo, qual è invece il risvolto occupazionale delle vostre iniziative lì nel Nord-Est? Allora, noi abbiamo dei numeri molto molto confortanti, nel senso che a sei mesi abbiamo più del 90% che ha un lavoro stabile nell'ambito che della logistica. In particolar modo i ragazzi vanno a occuparsi negli uffici logistici magazzino, nell'ufficio import-export, dove la logistica internazionale per un territorio con forte interscambio con la Germania, ma non solo con la Germania, è molto richiesta come figura, e soprattutto chi lavora sui trasporti nazionali e anche internazionali come disponente. E anche un interesse in particolar modo anche sugli uffici customer service, dove la componente logistica è importante saperla gestire anche quando le cose non vanno nel verso giusto e quindi il cliente ha bisogno di avere qualche soluzione a dei problemi. E il territorio ha risposto molto bene, cioè noi avevamo proprio il problema che tramite l'università e il master università formavamo i generali della logistica, i futuri generali, mettiamola certo. Così, mancavano i soldati e tutta la parte intermedia della logistica. I sottufficiali e la truppa, certo, molto spesso esatto. Succede questo, certo. E questo, diciamo, le aziende ce l'hanno chiesto 6-7 anni fa quando siamo partiti e poi hanno cominciato effettivamente a chiedere progetti, stage e poi ad assumere i ragazzi, e questo è il miglior certo. Cartina di tornasole di un progetto, ecco, se è positivo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, e vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.